America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, parliamo di politica. I sondaggi negli Stati Uniti danno per certa una vittoria dei repubblicani a novembre. Questo lo sapevamo già naturalmente, perché i giornali, nella nostra trasmissione, le televisioni continuano a ripeterlo. Però ogni volta che c'è un nuovo sondaggio che definisce il contorno, ovviamente, visto che siamo ormai in dirittura d'arrivo, mancano un paio di settimane al voto, martedì 2 novembre, ve lo ricordo, dicevo, ogni volta che c'è il risultato di un sondaggio ovviamente diventa interessante. Dunque i repubblicani dovrebbero, alcuni dicono, conquistare la maggioranza della Camera o comunque sicuramente fare dei passi importanti a Washington in Parlamento. Questo creerà un riequilibrio ovviamente dei rapporti tra Casa Bianca e Congresso. Barack Obama andrà un po' in libertà vigilata e la borsa scommette su questa vittoria pensando che i repubblicani potranno introdurre alcune novità economiche che aiuteranno le aziende, ma naturalmente anche la crescita dell'economia. Ma le elezioni non sono soltanto nazionali, sono anche locali. Ci sono varie poltrone di governatore in ballo, alcune importanti in Ohio, in Florida, a New York. Sia in Florida che in Ohio c'è una corsa testa a testa fra repubblicani e democratici. A New York invece la vittoria è certa, almeno così tutti dicono, di Andrew Cuomo, figlio di Mario Cuomo, che già fu governatore dello Stato per due mandati. La voce che vi ho proposto poco fa è quella di Carl Palladino, che doveva essere il grande antagonista di Andrew Cuomo. C'è stato un dibattito a sette l'altra sera e eppure Palladino ha, direi, un po' deluso. Sì, ha parlato delle difficoltà economiche, ha detto che Andrew Cuomo fa parte di una dinastia, che lui potrà portare novità vere ad Albany, ricordiamo la capitale dello Stato di New York, ma non c'è stato quell'attacco così drammatico, violento, sul piano verbale ovviamente, che alcuni si aspettavano da un personaggio colorful, così colorito, stravagante come Palladino. Sentiamo Andrew Cuomo. You hear this issue from Montauk to Buffalo, where people just don't have faith in state government anymore. Anche Andrew Cuomo è stato sulla difensiva, così un dibattito un po' noioso da quel punto di vista, però Andrew Cuomo non poteva fare diversamente, ha un vantaggio, pensate, di 35 punti su Palladino, che è il suo concorrente più diretto, e dunque l'unica cosa che può fare in questa situazione è di star fermo, di non muoversi. Andrew Cuomo temeva che Palladino potesse allearsi così con un'alleanza trasversale, ricordiamolo, Palladino è un candidato improbabile che è stato eletto dal movimento dei Tea Parties, di fatto, quindi di estrema destra. Sembrava che potesse allearsi con un paio di candidati della sinistra, un'alleanza trasversale contro il potere precostituito, contro le radici profonde di chi appartiene a una dinastia politica come appunto Andrew Cuomo. Così non è stato. Al dibattito c'erano anche Howie Hawkins del Partito dei Verdi, sentiamolo. My name's Howie Hawkins, I'm the Green Party candidate for governor. C'era anche Warren Redlich, che è un libertario, il partito dei libertari in America è uno dei più consolidati a livello nazionale, noi pensiamo sempre a democratici e repubblicani, eppure pensate, nello stato di New York ci sono ben 5 partiti diversi, partiti minori, basta raccogliere nelle elezioni 50.000 voti per poter essere automaticamente accreditati alle elezioni successive e dunque per avere la possibilità di presentare dei candidati. Se invece si hanno meno di 50.000 voti, beh, allora quel partito sparisce dalla mappa politica e per potersi presentare alle elezioni con dei candidati dovrà raccogliere almeno 25.000 firme. C'è stato anche Charles Barron, pensate, era un ex Pantera Nera, ricordate il movimento delle Pantere Nere, il movimento di protesta nera, prima che si potesse immaginare che un afroamericano come Barack Obama potesse arrivare alla Casa Bianca. Ecco, Charles Barron del Freedom Party. First thing I would do is have that Ma i due contendenti per la poltrona di governatore a New York più bizzarri, più divertenti, che hanno movimentato alla fine questo dibattito un po' stantio dell'altra sera, un dibattito a sette, come vi avevo detto, sono stati intanto Christine Davis, che si presenta a quelle elezioni con il partito dell'antiproibizionismo. Ecco, non è soltanto un antiproibizionismo che richiede, diciamo, la legalità, la possibilità di poter bere normalmente solamente alcol, no, è contro il proibizionismo della prostituzione, della droga e il proibizionismo dei matrimoni gay, e la sua piattaforma è una piattaforma alquanto aggressiva. Sentiamola. My name is Kristen Davis and I am running for governor of New York. I'm the only candidate who's not part of the corrupt and dysfunctional system. Ecco, avete sentito che ha una soluzione per i problemi economici di New York, la signora Davis, che era una tenutaria di bordelli, tra l'altro condannata per favoreggiamento della prostituzione. Ha detto: la mia soluzione per l'economia di New York è P al quadrato, la doppia P, e cioè prostituzione e pot, pot che vuol dire droga. Perché? Perché la signora propone di legalizzarle di modo che si possa caricare una tassa sia sulla prostituzione che sul traffico di droga, e questo produrrebbe degli introiti straordinari, dice, per lo Stato di New York, che si rimetterebbe in sesto grazie a lei in un battibaleno. I represent the rent is too damn high party. La vittoria, chiaramente, dal punto di vista dell'originalità in questo dibattito, è andata a Jimmy McMillan, che ha fondato un suo partito, è riuscito a raccogliere le 25.000 firme, e il nome del suo partito è Partito dell'Affitto, troppo maledettamente alto, letteralmente Rent is Too Damn High Party, Partito dell'Affitto troppo maledettamente alto. Ecco, è stato un personaggio che ha immediatamente conquistato la scena nazionale. Avete sentito il ritmo con cui parla, la velocità delle sue parole? Ha detto: io devo promettere a tutti che darò un tetto per le mamme che sono senza stipendio, che hanno dei figli da mantenere, per i disoccupati, per tutti. Ebbene, pagine sul Wall Street Journal, sul New York Times, dedicate al signor McMillan, che naturalmente promette, come molti politici, la luna. People substitute shouting instead of reasoned discussion. Ecco dunque uno spettacolo non propriamente edificante, quello che abbiamo visto a New York. Chi avete ascoltato in questo momento è Kurt Anderson, un commentatore americano che ho incontrato proprio l'altra sera, e si discuteva con lui, con un gruppo di altre persone qui a New York, dopo una cena di politica. L'atmosfera era alquanto depressa, proprio perché il livello della politica americana, come dice in questa dichiarazione proprio Anderson, è una politica ormai dell'urlo, non è più la politica del ragionamento, e fa riferimenti per esempio a Glenn Beck, a tutto un gruppo di politici che così poggia sulla rabbia, sul sensazionalismo, e dunque anche nella sinistra emergono personaggi come Kristen Davis o come Jim McMillan, l'una che parla di prostituzione, di tassa sulla droga, e l'altro che attacca o costituisce comunque il partito dell'affitto troppo alto. La stagione politica americana non è edificante, questo occorre dirlo, comunque succede un po' in tutto il mondo. Beh, avremo tempo di riflettere da qui al 2 novembre, giornata del voto, su quel che succede da questa parte dell'Atlantico. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook, ed eccoci alla canzone del giorno. Negli ultimi giorni circolava con insistenza la voce che Joanna Newsom avrebbe partecipato come ospite a una puntata di Simpson. Beh, la cantante ha smentito proprio ieri, però ha detto di aver sognato per 21 anni di poter dare la propria voce a Lisa Simpson, e dunque di Joanna Newsom, Peach Plum Pear. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.